allora, il cittadino ti comincia a parlare della lingua irlandese e del consiglio comunale e di questo e di quell'altro e degli anglofili che non sanno parlare la loro lingua. E Joe vuol metterci il becco perché ha fatto scucire una ghinea a qualcuno. E Bloom, anche lui dentro, con lo zampirone da 2 soldi che aveva fatto sputare da Joe. E a parlare della Lega Gaelica e della Lega contro chi paga da bere e del bere, dannazione dell'Irlanda. Contro chi paga da bere è quel che vorrebbe. Per Diana, lui si lascerebbe mandare giù cicchetti di ogni genere fino ad andare davanti al Padre Eterno, ma a te manco ti fa vedere la schiuma di una birra. Una sera mi capitò d'andare con un amico a una di quelle serate musicali e canto e danza. Roba come su una bella balla di fieno la mia Morin godeva il sereno. E c'era uno con una coccarda blu di temperanza che andava spifferando frescacce in irlandese e un mucchio di belle irlandesine che andavano in giro con bevande non alcoliche e a vender medaglie, arance, limonata e certi maritozzi vecchi rinsecchiti per Diana. Un divertimento di nulla, non ne parliamo neanche. L'Irlanda stemmia è l'Irlanda libera. E poi ci fu un vecchio che si mise a soffiare nella cornamusa e tutti quei cogliomberi a strascicare i piedi sul motivo di chi è crepata la vacca. E una o due tonache, guide del cielo, avevano gli occhi dappertutto perché non ci fossero maneggi con le donne. Un colpo basso questo. Così poi, come stavo dicendo, il vecchio cane, vedendo che la scatola era vuota, comincia a snasare attorno a me e a Joe. Lo alleverei io con le buone, sta tranquillo, se fosse mio. Tirargli un calcione da svegliarlo ogni tanto dove non batte il sole. Paura che morda, dice il cittadino ghignando. No, faccio io. Però non vorrei che mi prendesse la gamba per un lampione. Così lui richiama il cane. Cos'hai, Garry? Dice. Poi si mette a tirarlo, a mandrugiarlo, a parlargli in irlandese e quel cagnaccio a rugliare, a far la sua parte, come in un duetto d'opera. Tra tutte e due facevano un ringhiare che non si era mai sentito. Qualcuno che non ha nient'altro da fare. Dovrebbe scrivere una lettera pro bono pubblico ai giornali sul regolamento sulle museruole per i cani come quelli. Ringhia e brontola e l'occhio tutto iniettato di sangue per la sete e l'idrofobia gli sbava dalla bocca. Tutti coloro che hanno a cuore la diffusione della cultura umana tra gli animali inferiori e il loro nome è legione. Dovrebbero farsi un obbligo di non mancare alla veramente mirabile manifestazione di cinantropia data dal famoso setter cane lupo rosso irlandese già noto con il sobriquet di Garry Owen e recentemente ribattezzato dalla sua larga cerchia di amici e conoscenti Owen Garry. La manifestazione, che è il risultato di anni e anni di allevamento con le buone e di un regime alimentare attentamente pianificato, comprende insieme ad altre attrazioni l'addizione di versi. Il nostro più grande specialista di fonetica, torturateci pure, non vi diremo il nome, nulla ha tralasciato nei suoi tentativi di delucidare e confrontare i versi recitati e ha trovato che rivelano una rassomiglianza impressionante, il corsivo è nostro, con le rime degli antichi bardi celti. Non vogliamo tanto parlare di quegli squisiti cantori d'amore che lo scrittore che cela la sua identità sotto il grazioso pseudonimo di Esile Ramoscello ha reso familiari agli amici del libro, ma piuttosto come un collaboratore di O.C. sottolinea in una interessante comunicazione pubblicata da un confratello della sera di quella nota più aspra e individuale che si ritrova negli sfoghi satirici del famoso Raftery e di Donald Mac Considine, per non parlare di un lirico più moderno attualmente assai in vista. Ecco Diamo qui un esempio volto in inglese da un chiarissimo studioso il cui nome non ci è consentito per il momento di rivelare, per quanto confidiamo che i nostri lettori troveranno indicazioni ben chiare in certe allusioni di attualità del testo. La metrica dell'originale canino, che richiama le intricate regole allitterative isosillabiche dell'Anglin gallese, è infinitamente più complessa. Ma noi confidiamo che i lettori riconosceranno essere stato ben colto lo spirito dell'originale. Forse sarebbe da aggiungere che giova assai all'effetto il recitare i versi di Owen un poco lentamente e indistintamente e con un tono che suggerisca un rancore represso. Maledetto, stramaledetto, 7 volte la settimana. E 7 giovedì secchi a te, Barney Kiernan. Manco un bicchier d'acqua per rinfrescarmi il coraggio e le budella che bruciano per le tue rigaglie, Laurie. Così disse a Terry di portare un po' d'acqua al cane. E per Diana si sentiva leccare a 1 miglio di distanza e Joe gli chiese se non ne voleva un altro. Sì, dice, a cara, per far vedere che non c'è ruggine. Per Diana, non è così fesso come parrebbe dalla sua faccia di cavolo. Strascina il culo da una bettola all'altra. A te l'onore. Col cane del vecchio Giltrap e lo nutre a spese dei contribuenti. Trattamento per l'uomo e la bestia. E Joe dice: E a un'altra bevuta ci sta? Si invita la corsa alle prare, faccio io. Il solito Terry, dice Joe. È proprio certo di non voler nulla a modi di setante, dice lui. No, grazie, dice Bloom. Veramente volevo vedere se trovavo Martin Cunningham, capisce? Per quell'assicurazione del povero Dignam. Martin mi aveva detto di andare a casa. Capisce lui, cioè Dignam. Non ha notificato tempo debito l'ipoteca sulla polizza alla compagnia e a termini di legge il creditore ipotecario non può rivalersi sulla polizza. Per dindirindina, dice Joe ridendo, è bellissima che il vecchio Shylock si trovi col culo in terra. Allora è la moglie che ne esce a cavallo, eh? Beh, questo è un punto che riguarda i pretendenti della moglie. Pretendenti di chi? Dice Joe. Consulenti della moglie, voglio dire, fa Bloom. E poi si imbarca in una gran confusione di crediti ipotecari e termini di legge. Come un giudice in tribunale, e il beneficio della vedova e il fideicommesso così costituito, ma che d'altronde Dignam doveva denaro a Bridgman, e che se ora la moglie o la vedova contestava il diritto del creditore ipotecario fino a farmi la testa come un pallone con quelle ipotecarie e termini di legge. Può ringraziare sto fottuto di non esserci capitato lui nei termini di legge. Quella volta come pregiudicato senza fissa dimora, solo che aveva un amico in tribunale. Vendeva biglietti per una pesca di beneficenza o come si chiamava, la lotteria reale ungherese autorizzata. Quant'è vero che sei lì, vatti a fidare di un israelita. Reale ladreria ungherese autorizzata. Così si avvicina barcollando Bob Doran. A chiedere a Bloom di dire a Mrs. Dignam che gli dispiaceva tanto e che gli spiaceva moltissimo per il funerale e di dirle che lui diceva a chiunque lo conosceva, diceva che non c'era mai stato uno più buono e sincero del povero Willy che è morto, di dirglielo. Ci affogava di fottuta fesseria e stringeva la mano a Bloom facendo il tragico e che glielo dicesse. Qua la mano, fratello, tu sei un dritto e io un altro. Mi permetta, disse, di abusare di questa nostra conoscenza, che per quanto possa apparire superficiale, se la si giudica in termini di tempo materiale, pure è basata, come io spero e credo, su un sentimento di stima reciproca, sì da chiederle questo favore. Però, se avessi mai oltrepassato i limiti del dovuto riserbo, sia di scusa alla mia audacia la sincerità dei miei sentimenti. No, ribatté l'altro, apprezzo pienamente i sensi che ispirano il suo modo d'agire e io espleterò l'incarico che ella mi affida, confortato dal pensiero che, benché doloroso il messaggio, questa prova della sua fiducia in me addolcisce in una certa misura l'amarezza del calice. Voglia allora consentirmi di prenderle la mano, diss'egli. La bontà del suo cuore, ne son certo, le saprà dettare meglio di quanto possano le mie parole inadeguate, le espressioni più acconce a esprimere un'emozione la cui vivezza, dovessi io dar sfogo ai miei sentimenti, mi toglierebbe la favella. Lo pianta in asso e se ne va cercando di camminar diritto. Sbronzo alle 5. Una sera per poco non lo pizzicavano, solo che pa di Leonard conosceva il questurino 14A. Una bella cotta s'era preso in una gargotta di Bride Street dopo l'ora di chiusura. Brancicava due sciupate col magnaccia che stava di guardia e beveva birra in tazze da tè e si faceva passare per franciosino con le due sciupate, Joseph Manuot, e parlava contro la religione cattolica, proprio lui che serviva messa da piccolo alla chiesa di Adamo ed Eva, con gli occhi chiusi, e chi ha scritto il Nuovo Testamento e il Vecchio Testamento. E giù a baciarsi e spolpazzarsi. E le sciupate crepavano dal ridere. Gli spolverarono le tasche a quel fesso fottuto. E lui versava la birra sul letto e le due a strillare e ridacchiare tra loro. Come sta il tuo testamento? Ce l'hai un vecchio testamento? Qualche volta ci capitava anche Paddy. E non dico altro. Ma guardatelo un po' la domenica con quella concubina di moglie e lei che scodinzola su per la navata centrale, scarpette di coppale, niente meno, e le violette, tutta aggiustata, fa la madamina. La sorella di Jack Mooney è quella vecchia puttana della madre che affitta stanze alle coppiette. Perdiana, Jack l'ha messo a posto, gli ha detto che se non riparava i cocci, Cristo gliel'avrebbe fatta fare addosso. Così Terry portò le tre pinte. Ecco, dice Joe, facendo gli onori di casa. Ecco, cittadino. Slan leat, dice lui. Felicità, Joe, faccio io. Alla salute, cittadino. Perdiana ci aveva già ficcato dentro tutto il naso. Ci vorrebbe un piccolo capitale per cavargli la sete. Chi è quel lungo che è candidato sindaco? Alf, dice Joe. Un amico tuo? Dice Alf. Nanna, dice Joe, il disonorevole. Non faccio mai nomi, dice Alf. Volevo ben dire, dice Joe. L'ho visto poco fa alla riunione col deputato William Field, quello dei mercanti di bestiame. Il chiomato Iopas, dice il cittadino, quel vulcano in eruzione, il cocco di tutti i paesi e l'idolo del suo. Così Joe attacca a parlare al cittadino dell'afta epizootica e dei mercanti di bestiame e che bisognava darsi da fare e il cittadino li manda tutti a farsi friggere e Bloom vuol mettere bocca col bagno per la scabbia delle pecore e la pozione per la tosse dei vitelli e il rimedio infallibile per la glossite bovina, tutto perché è stato un po' di tempo da un beccaio. Gironzolava avanti e indietro col libretto e matita, testa in anticipo, talloni in ritardo, finché Joe Cuff un bel giorno lo cacciò a pedate perché aveva fatto lo strafottente con un allevatore. Signor so tutto, insegna a tua nonna a mungere le papere. Mi diceva Pisser Bark che all'albergo sua moglie si sfogava in fiumi di lacrime certe volte con Mrs. O'Dowd e si scioglieva in pianto con tutto quell'ardo addosso. Anche se si voleva sciogliere le stringhe scorreggianti del busto, c'era quel ghiozzo a ballonzolarle attorno per insegnarle come si faceva. Che programma hai oggi? Già, metodi umanitari, perché le povere bestiole soffrono e gli esperti dicono è il miglior rimedio conosciuto che non fa soffrire l'animale e passarne un po' leggermente sulla parte malata. Per Diana, dovrebbe aver la mano leggera sotto una gallina. Cocco, cocco, coccodè, coccodè, è Lisa la nera, la gallina nostra, le fa per noi le uova e quando le fa è così contenta. Cocco, coccodè, coccodè. E poi arriva il buon zio Leo, mette la mano sotto Lisa la nera e prende l'ovino fresco. Coco, cocco, cocco, coccodè, coccodè. Comunque, dice Joe, Field e Nannetti si imbarcano per Londra stasera per un'interpellanza alla Camera dei Comuni. È proprio sicuro, dice Bloom, che il consigliere vada anche lui? Volevo vederlo per l'appunto. Sì, parte col postale, dice Joe, stasera. È un guaio, dice Bloom. Avevo proprio bisogno. Forse va solo Mr. Field. Non ho potuto telefonare, no. È sicuro? Anche Nannan parte, dice Joe. La Lega l'ha incaricato di un'interpellanza per domani sulla questione del commissario di polizia che proibisce i giochi irlandesi nel parco. Che ne pensi, cittadino? Lo Sluagnach e i Rean. Mister Vacca Conacre, multifarnam nuts, in relazione all'interpellanza dell'onorevole collega del collegio di Shillelagh, posso chiedere al detto onorevole se il governo ha emanato ordini affinché questi animali siano macellati? Pur non esistendo alcun referto medico circa le loro condizioni patologiche? Mister Quattro Zampe, Tam O'Shanter Cons. Gli onorevoli colleghi sono già a giorno del referto sottoposto alla commissione nominata dall'Assemblea. Ritengo di non poter utilmente aggiungere altro. La risposta all'interpellanza dell'onorevole collega è affermativa. Mister Orelli, Montenotte, Naz. Sono stati emanati ordini analoghi riguardo alla macellazione di animali umani che osino praticare giochi irlandesi nel parco Phoenix? Mister Quattro Zampe. La risposta è negativa. Mister Vacca Conacre. Il famoso telegramma di Mitchelstown dell'onorevole collega ha forse ispirato la decisione dei signori sul banco del governo? Mormorii. Mister Quattro Zampe. L'interpellanza non mi è stata notificata. Mister Freddori, Buncombe, Inde. Non esitate a sparare! Applausi ironici dell'opposizione. Il presidente. Silenzio! Silenzio! La seduta è tolta. Applausi. Ecco l'uomo, dice Joe, che ha portato la rinascita dello sport gaelico. Eccolo, seduto là. L'uomo che ha fatto scappare di prigione è James Stephens. Campione assoluto d'Irlanda nel lancio del peso di 16 libbre. Qual è stato il tuo lancio migliore, cittadino? Nabacleis, dice il cittadino, facendo il modesto. C'è stato un tempo che ce n'erano pochi a tenermi testa, però. Qua la zampa, cittadino, dice Joe. Anzi, non c'era nessuno. Eri un fottio meglio di tutti. Ma davvero? Dice Alf. Sì, dice Bloom, è risaputo. Lei non lo sapeva? Così giù a parlare di sport irlandese e di quelli anglofili come il tennis su prato e dell'hockey e del lancio del peso e il gusto della terra e ricostruire una nazione e tutto quel che viene dopo. E si capisce, Bloom voleva metterci il becco anche lui. Se per esempio uno ha mal di cuore, deve evitare gli sport violenti. Porco d'un mondo, ci scommetto che se tiri su una pagliuzza da terra e dici a Bloom: Guardi, Bloom, vede questa pagliuzza? È una pagliuzza! Mi giocherei mia nonna che lui si mette a parlarne per un'ora, porca miseria, senza chetarsi un minuto. Un dibattito di estremo interesse ebbe luogo nell'antica sala di Brian O'Carnaghan's Inside na Breatain Beag. Sotto gli auspici dello Sluag na Éireann sulla rinascenza degli antichi sport gaelici e l'importanza dell'educazione, come la si intendeva nell'antica Grecia e nell'antica Roma e nell'antica Irlanda, per il miglioramento della razza. Il venerabile presidente dell'Augusto Ordine presiedeva e il pubblico era di vaste proporzioni. Dopo un istruttivo discorso del presidente, una magnifica orazione piena di forza e di eloquenza, seguì un dibattito istruttivo e di estremo interesse, all'usato altissimo livello di eccellenza, circa la desiderabilità della possibilità di rinascenza degli antichi giochi e sport dei nostri antichi progenitori pan-celti. Il ben noto e rispettato difensore della causa della nostra lingua, Mr. Joseph McCarthy Hines, lanciò un eloquente appello per la reviviscenza degli antichi sport e passatempi gaelici praticati mattina e sera da Finn McCool, all'uopo di far rivivere le migliori tradizioni di forza e potenza virile tramandateci dalle antiche ere. L. Bloom, salutato da applausi e fischi contrastanti, avendo sostenuto la tesi opposta, il canoro presidente pose fine alla discussione, in risposta alle reiterate richieste e ai cordiali applausi provenienti da ogni parte della sala stipata, con una veramente magistrale esecuzione dei versi sempre vivi dell'immortale Thomas Osborne Davis. Fortunatamente, troppo familiari perché sia necessario richiamarli a mente. Nuovamente nazione, nella quale parte ben si può affermare, senza tema ad essere contraddetti, che il veterano patriota paladino superò se stesso. Il Caruso Garibaldi irlandese era in forma superlativa e le sue note stentoree fecero pompa di sé in quel sacro inno, cantato come solo il nostro concittadino lo può cantare. La sua superba arte canora di gran classe, che con la sua super qualità elevò di gran lunga il già alto livello della sua reputazione internazionale, fu acclamata a gran voce dal numeroso pubblico, tra cui si notavano molti eminenti membri del clero, oltre ai rappresentanti della stampa, del foro e delle altre professioni liberali. La seduta fu quindi tolta. Tra i membri del clero presenti citeremo il molto Rev. William Delany, S.J., LL.D., il molto Rev. Gerald Molloy, D.D., il Rev. P.J. Kavanagh, C.S.S.P., il Rev. T. Waters, C.C., il Rev. John M. Ivers, P.P., il Rev. P.J. Cleary, O.S.F., il Rev. L.J. Aiki, O.P., il molto Rev. F.R. Nicholas, O.S.F.C., il molto Rev. B. Gorman, O.D.C., il Rev. T. Meyer, S.J., il molto Rev. James Murphy, S.J., il Rev. John Lavery, V.F., il molto Rev. William Dyerty, D.D., il Rev. Peter Fagan, O.M., il Rev. T. Brangan, O.S.A., il Rev. J. Flavin, CC, il Rev. M. Hackett, CC, il Rev. W. Harley, CC, il molto Rev. M. G. R. Manus, VG, il Rev. B. R. Slattery, OMI, il molto Rev. M. D. Scully, PP, il Rev. F. T. Purcell, OP, il molto Rev. Canonico Timothy Gorman, PP, il Rev. J. Flanagan, C.C. Tra i laici si notavano P. Fay, T. Quirk, eccetera, eccetera.